in primo piano. Questo venerdì 22 aprile voglio intanto iniziare dal titolo di apertura del Sole 24 Ore, che fa un'anticipazione: edilizia e fisco più semplici. In arrivo il silenzio ha senso per gli interventi sugli immobili e l'ampliamento della contabilità alleggerita. Una notizia anticipata dal Sole 24 Ore, che però mette subito in primo piano, subito dopo, l'altra notizia, che è poi la notizia d'apertura di tutti i giornali, vale a dire il terremoto delle dichiarazioni del ministro Galan contro Tremonti, che hanno fatto scatenare un putiferio. Berlusconi rassicura Tremonti dopo gli attacchi di Galan, così sul Sole in prima pagina. Ma la vicenda Tremonti è davvero in primo piano ovunque. Per il Corriere: Berlusconi difende Tremonti dopo l'attacco di Galan. Per Repubblica: nel PDL scoppia il caso Tremonti. Guardate la Stampa: è bufera su Tremonti, il premier, sto con lui. Il Giornale, che ieri ha fatto scatenare questo putiferio con la frase di Galan con Tremonti si perde, questa intervista molto dura. Caso Tremonti, Silvio, media, tensione nell'esecutivo. Libero è più esplicito: sono tutti impazziti, preghiera al PDL, basta liti. Tremonti pieno sostegno per il Messaggero, per il Manifesto è una... c'è Tremonti con la il titolo Tremontana. Mentre cito invece il Fatto Quotidiano, che torna sulla vicenda dell'onorevole Remigio Ceroni, quello che propone di cambiare l'articolo 1 della Costituzione. Il Fatto Quotidiano ha scovato una notizia che lo riguarda: ieri picchiava la moglie, oggi riforma la Costituzione. È accusato di percosse nei confronti della moglie, l'onorevole Ceroni. Va bene, da cosa voglio partire come segnalazioni? Una la trovate su tutti i giornali, riguarda la tecnologia, ma riguarda anche tutti noi, riguarda noi e tutti coloro che hanno un iPad 3G di Apple. Perché? Due ricercatori americani hanno scoperto che l'iPhone, come titola la Stampa, per esempio a pagina 25, l'iPhone spia i suoi utenti, bufera su Apple. Ma attenzione, guardate anche il Secolo XIX, così ti spio da telefono e computer, privacy a rischio. E anche il Quotidiano Nazionale: occhio ai partner gelosi, l'iPhone diventa 007, registra gli spostamenti. E ancora, se non ne avete abbastanza, sul Messaggero una pagina: l'iPhone come una spia, registrato ogni movimento. La vicenda è stata scoperta da due ricercatori californiani e praticamente l'iPhone registra e tiene in memoria nel computer un file che poi viene messo in un'apposita cartella, e basta avere scaricare un programmino dal computer e questo file registra tutti i movimenti che una persona fa. Si può risalire anche all'indirizzo di casa e si può risalire ovviamente a tutti gli spostamenti che fa in tutte le località. Ovviamente il senatore repubblicano americano Franken, dopo questa scoperta, ha scritto a Steve Jobs chiedendo di far luce sulla questione. La prima domanda che pone è: perché Apple raccoglie queste informazioni? Il Secolo XIX dice: abbiamo fatto anche l'esperimento, è vero, questo file l'abbiamo trovato, basta scaricare su Mac un programmino in pochi minuti e effettivamente c'è questo file che spiega e ti fa vedere tutto il tracciato delle località anche in maniera abbastanza precisa. Si può risalire anche all'indirizzo di casa che uno ha frequentato durante una qualsiasi giornata. E c'è addirittura il Messaggero che va a intervistare Paola Ferrari, star della TV, collega, giornalista, che dice: insomma, è una vicenda che attacca la privacy. A me piacciono tutti questi gadget, ma o spiegano alla Apple o criptano questa cosa o mi tolgono questa funzione, oppure addio Apple, perché insomma è una vicenda che sicuramente rischia di ledere la privacy. Ci sono ovviamente molti giornali che la buttano, come il Quotidiano Nazionale, ecco, sui partner gelosi, no? O quelli che hanno l'amante. Attenzione se avete l'iPhone e avete anche l'amante. La seconda segnalazione la trovo dal Giornale, a pagina 14. Eleonora Barbieri racconta di un libro che sta avendo molto successo in America con una teoria complottista, una teoria che per la verità non è nuova, ed è questa: Obama non è americano, cioè il presidente degli Stati Uniti non è americano. Non è in realtà nato a Honolulu, nella Hawaii, il 4 agosto del 1961, come ha prodotto lui stesso in un certificato di nascita, ma è un certificato di nascita elettronico e dunque può essere in qualche modo cambiato, può essere modificato abbastanza facilmente. Ebbene, questa è la nuova teoria, non nuova, ma riproposta teoria di tale Jerome Corsi nel libro Where's the Birth Certificate? Cioè, dov'è il certificato di nascita? Sapete che per la Costituzione americana, se uno non è nato negli Stati Uniti, non è eleggibile alla presidenza degli Stati Uniti stessi. E dunque, una teoria davvero devastante se confermata. Obama l'ha smentita più volte, c'è chi dice... Però pare che da un sondaggio il 50% dei repubblicani, quindi gli oppositori politici di Obama, sono convinti che in realtà Obama non sia un americano di nascita. Ebbene, questo libro pare stia facendo molto, molto successo. C'è chi dice è uno scandalo, insomma, sono accuse addirittura razziste. Beh, adesso razziste. C'è invece chi dice no, è la verità. L'autore di questo libro dice: abbiamo indagato 3 anni prima di proporre questa teoria, alla base della quale c'è il fatto che il certificato di nascita prodotto da Obama sarebbe stato chiaramente contraffatto con alcune abili azioni al computer. Vabbè, visto che c'è tempo per una nuova segnalazione, la faccio, così, giusto per sorridere. A pagina 23 del Quotidiano Nazionale, quelli che fanno queste belle ricerche che poi mandano in giro tutto il mondo e incredibilmente ottengono anche degli spazi sulla stampa. Beh, secondo una ricerca, uno studio pubblicato da una rivista che viene da una ricerca dell'Università di Ginevra, l'uomo più macio e più sexy da che cosa si riconosce? Vediamo, vedo Filippo Oreggi, lascio un attimo di suspense. L'uomo, se è più macio e più sexy, si riconosce dal fatto che ha il dito anulare più lungo del dito indice. Tenete la mano sul volante, cari uomini, per favore. Potete controllare anche quando vi fermate un attimo al bar, all'autogrill o quando siete al posto di lavoro. Se avete l'anulare più lungo dell'indice, siete più macio, siete più sexy. Oh, spero di avervi rallegrato questa giornata. Andiamo in pubblicità, va, che è meglio. Io lo sapevo che arrivavano tutti i messaggi di chi si è già controllato se ha l'anulare più lungo dell'indice, perché questo, secondo il ricercatore di Ginevra, vuol dire che si è più sexy e più macho. Ovviamente tutti gli uomini che mi scrivono: grazie, ho scoperto di avere l'anulare più lungo dell'indice, mi hai rallegrato la giornata, evviva, eccetera. C'è chi mi chiede: della mano destra o sinistra? Non lo so, caro Damiano, non lo so, penso che siano più o meno uguali, no? Allora, gettiamoci sulle cose più serie, vale a dire, la notizia che trovate del giorno è certamente l'eco della polemica che c'è da ieri, dopo questa intervista che il ministro Galan, il ministro della cultura, ha fatto accusando duramente il ministro Tremonti all'interno del governo, dicendo con lui si perde, ha commissariato il governo con la sua politica, io sono un liberale, lui un socialista. Insomma, è scoppiato un putiferio ieri, tutti i giornali aprono su questo, la maggior parte dei giornali, e c'è da dire che ieri Tremonti e Berlusconi sono visti per un paio d'ore di colloquio definito da tutti i quotidiani molto teso. Berlusconi dà sostegno a Tremonti, questa è la linea ufficiale anche per il Sole 24 Ore, la linea ufficiale del Presidente del Consiglio. Tensione dopo gli attacchi di Galan, ma il Premier ribadisce la linea del Ministro va mantenuta. Il retroscena più interessante lo troviamo con il Corriere della Sera, con Francesco Verderami a pagina 3, perché ci sono anche molti virgolettati, non si capisce bene, probabilmente Verderami ha raccolto anche direttamente il parere di Silvio Berlusconi. Silvio e Giulio, 2 ore di colloquio, dalla tensione alla tregua, tutto bene. Tremonti ha preteso la nota ufficiale di Berlusconi, l'incidente è chiuso. Chissà se Gianni Letta credeva a ciò che diceva, rispondendo il primo pomeriggio all'ennesima telefonata di un ministro desideroso di avere notizie dal fronte. Dal fronte si è venuto a sapere che il Premier e il titolare dell'economia si erano già sentiti con un tono di conversazione molto acceso, ma senza il solito canovaccio in cui Giulio minaccia le dimissioni e Silvio le respinge. Berlusconi avrebbe esordito così nell'incontro con Tremonti: non riesco proprio a capire, quando succedono certe cose mi stropiccio gli occhi, fanno danno, solo danno. Poi è tornato anche sulla vicenda dei manifesti a Milano, quella storia dei manifesti sulle brigate rosse nelle procure, poi quel deputato che vuole riformare il primo articolo della Costituzione. Si tratta di singoli casi incontrollabili tra un mare di candidati e di parlamentari, casi che vengono gonfiati dalla stampa e strumentalizzati. Queste sono parole attribuite, ripeto, al Presidente del Consiglio, secondo Francesco Verderami. E ancora si è difeso il Cavaliere: che interesse avrei politicamente in questa fase? Anche Giulio lo sa benissimo, nessuno. Sa che non c'è niente di ispirato da me. Conosco Galan, il suo carattere, e purtroppo quando gli stati d'animo si riflettono sui media, vediamo quali sono le conseguenze. Non c'è tensione, assolutamente, tra noi tutto chiaro. In realtà c'è anche un Berlusconi che dice che con Tremonti non ho mai litigato, e Verderami appunto dice: come mai? Mai, giuro. Ma se una volta è rimasto lei persino a San Pietroburgo pur di non tornare a Roma per vederlo? Ah sì, quella volta che c'era la tormenta di neve. E vabbè. E insomma, un Berlusconi che dice, prova a gettare acqua sul fuoco. Sta di fatto che in realtà, insomma, su tutti i giornali, anche sulla Stampa, Fabio Martini a pagina 5, c'è un Galan che insiste, l'ex governatore insiste: tra i ministri non sono solo. Non fa retromarcia, deve piacergli l'idea di passare alla storia come l'anti-Tremonti. Dopo questa fiammeggiante intervista al Giornale di ieri, e il ministro, col ministro dell'economia che se l'è presa, questa frase è attribuita a Galan. Lui può dire quello che crede, ma nel governo c'è un problema di collegialità e Tremonti non può presentarsi sempre col pacchetto già chiuso. Parliamone in Consiglio dei Ministri e non credo che sarò solo. Cioè, c'è questa sensazione, scrive la Stampa, che in realtà Galan ha espresso ciò che molti altri ministri, d'altronde anche gli altri giornali ricordano, in passato ci sono stati degli screzi, degli scontri, si narra tra Brunetta e Tremonti: vieni qui che ti prendo a calci nel sedere, insomma, avrebbe detto Tremonti a Brunetta in un Consiglio dei Ministri, in un altro con Stefania Prestigiacomo, che ha detto: smettila di dire cretinate a Tremonti, che subito ha minacciato le dimissioni, questo qualche mese fa. Insomma, erano tutte raccontate dai giornali. Insomma, le tensioni tra i ministri e Tremonti non sono una novità, tanto che la Stampa però racconta anche un qualcosa di particolare in più, una vicenda ancora riservata. Riguarda l'assise di Confindustria del 7 maggio a Bergamo, alla quale viene attribuito un particolare significato simbolico, alla quale non sarebbero stati invitati politici, dunque non ci sarà il Premier, ma, scrive la Stampa, potrebbe esserci il Ministro dell'Economia. E allora, scrive la Stampa, una ragione in più per dar credito a quello che sussurra uno dei ministri, che dice, anonimo: se riusciremo a vincere le elezioni a Milano, si porrà inevitabilmente il problema di un ridimensionamento di Tremonti. Secondo il Riformista, Tremonti avrebbe detto così: se me ne vado, tu cadi, a Silvio Berlusconi. Secondo altri giornali, avrebbe minacciato le dimissioni, cosa che il Corriere dice invece non ha fatto. Sta di fatto che le liti, le sfide per Berlusconi sono diverse. Marco Galluzzo sul Corriere racconta anche che ieri ha visto anche Scajola, che vuole, insomma, ritornare un po' in campo, un riposizionamento all'interno del partito. Insomma, ci sono varie vicende un po' complicate che creano un po' di imbarazzo. Libero le sottolinea in prima pagina così: sono tutti impazziti, con l'editoriale di Vittorio Feltri, che dice: incidente chiuso, è presto per dirlo. Certo, il PDL sembra una gabbia di matti, così Vittorio Feltri, un'accusa certo non da oppositore politico. Mentre il migliore è, come quasi sempre, Iena, sulla Stampa, pagina 3, reazioni, dura ma sintetica la reazione di Tremonti. Porca troia! Questo Iena oggi sulla Stampa. L'altra vicenda, che è un po' anche il tema del nostro sondaggio, su quale torneremo, è la vicenda Lassini, che non è per nulla finita. La vicenda dei manifesti, il tema del nostro sondaggio è questo: via i reati di opinione, voi abolireste i reati di opinione? È accusato di vilipendio delle istituzioni. Lassini per questo manifesto via Lebier dalle procure. Vi chiediamo, voi abolireste reati d'opinione dal codice penale? Questa vicenda davvero non è finita perché da ieri il giornale, avremo ospite il direttore del giornale Alessandro Sallusti alle 8:30 insieme al direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro. Ieri il giornale ha lanciato questa campagna. Io voto Lassini e Moratti. Tra l'altro notate anche l'ordine in cui viene. Io voto Lassini e Moratti, neanche Moratti e Lassini, no? Scrive il Corriere, viene dato l'accento, quasi più la sottolineatura al voto Lassini e poi la Moratti. Il Corriere scrive Lassini timore nel PDL sull'effetto boomerang, la Moratti non cede. Repubblica. Riporta un'intervista che ieri Lassini ha fatto a Porta: da Berlusconi ho ricevuto una telefonata di solidarietà e se verrò eletto vedremo che fare. Non dico se rinuncerò o meno, perché il problema che si è posto dall'inizio è questo: non può più ritirarsi, secondo un'interpretazione del regolamento, delle liste comunali già depositate, non può più ritirarsi dalle liste. Anche se pare che Berlusconi abbia incaricato due parlamentari, tra questo l'onorevole Giorgio Straquadagno, di vedere, di fare tutti i ricorsi possibili per capire se si può togliere in realtà dalla lista delle candidate alle comunali Lassini. Insomma, il tema è questo. Mentre l'altra vicenda che riguarda l'onorevole Remigio Ceroni, dicevamo, il Fatto Quotidiano mette una notizia che sicuramente è una notizia che ha solo il Fatto Quotidiano, ha scovato e che mette in prima pagina come titolo di apertura: ieri picchiava la moglie, oggi riforma la Costituzione. E poi all'articolo a pagina 6 di Robusta Costituzione, Ceroni picchiava la moglie. L'articolo di Sandra Murri con un titolo molto molto forte, molto pesante. Pende su Ceroni, racconta il fatto, una denuncia della moglie per percosse. Accompagnata al pronto soccorso dalla sorella, la moglie ha riferito di essere stata percossa dal marito in casa, ecchimosi, contusioni, ematomi e scoriazioni su tutto il corpo con una prognosi di 20 giorni. Viene definito il Rais di Monte Rubiano, il suo padre politico era Bondi, al quale forniva prosciutti e salami. Questo è un motivo, secondo il fatto, della carriera politica dell'onorevole Remigio Ceroni. Ma certo, frasi molto dure, un articolo e un titolo molto molto pesante. D'altronde che la politica viva un momento di impazzimento, anche di insulti, insomma. Lo si evince da alcuni episodi. Il primo riguarda Scilipoti. Scilipoti, vita da Scilipoti, insulti per strada. Il Corriere della Sera fa sapere che Scilipoti ormai è arrabbiatissimo, soprattutto dopo che Bersani ha detto questa frase, commentando la proposta dell'onorevole Ceroni, ha detto sì, perché non fanno la Costituzione e la cambiano scrivendo che è fondata su Scilipoti. Dice Scilipoti da quel giorno, da un paio di giorni, si è scatenato un clima di odio nei miei confronti. Comincia ad avere paura anche di aggressioni fisiche. In Parlamento, beh, ormai è noto, ogni volta che entra i deputati dell'Italia dei Valori lo chiamano Munnizza, Munnizza, cioè immondizia, immondizia. E lui dice, da quando Bersani ha detto questa cosa, giro e mi insultano. A Padova mi hanno detto venduto, come fai a uscire di casa? In un bar di Roma mi hanno dato del mafioso, per strada mi maledicono. Email, SMS, telefonate, meriti di avere la testa mozzata come i samurai rinnegati, che ti massacrino a terra come la Petacci. Ti devono sparare alle spalle. C'è un video in rete come uccidere Scilipoti. Insomma, effettivamente Scilipoti adesso dice: non abbiamo passato il segno, cioè vi rendete conto di quello che sto vivendo? Però potrà consolarsi, certo, con la prefazione al suo libro firmata Silvio Berlusconi. È uscito un suo libro, Perché Berlusconi, Scilipoti, re dei peones. E Silvio Berlusconi ne ha firmato la prefazione, una prefazione che oggi Libero anticipa in prima pagina. Berlusconi parla di Scilipoti come vittima di quella collaudatissima macchina del fango che negli ultimi 20 anni ha causato un gran numero di vittime. L'onorevole Domenico Scilipoti, che si sono ribellate alla vergognosa pratica del ribaltone, sono divenuti oggetto di questa macchina che produce pericolose liste di proscrizione, alimenta ogni giorno un perenne clima di tensione. Questo libro, parole di Berlusconi, ha il pregio di rompere gli schemi precostituiti della vulgata di sinistra e affermare con orgoglio il valore del termine peon, solitamente utilizzato dalla stampa in forma negativa e qui invece declinato nella sua accezione positiva, ovvero peon in quanto infaticabile, pragmatico, lavoratore al servizio della democrazia. Così, l'onorevole, così il premier Berlusconi nella prefazione al libro di Scilipoti. Impazzimento della politica, insulti? Beh, l'episodio che trovate anche su tutti i giornali e sono gli insulti alla deputata omosessuale Paola Concia del Partito Democratico, che era a vedere un concerto con una compagna mano nella mano, e lo leggiamo da tutti i giornali: insulti anti-gay a Concia e alla compagna. Certo, c'è la solidarietà di tutta la politica, ma insomma lei dice: mi ha insultato un signore, voi lesbiche dovevano mandarvi ai forni. Così mi ha insultato tra l'indifferenza generale, questo anche sul Fatto Quotidiano, pagina 10, insomma, il clima nel paese è questo qui. Il Sole 24 Ore, come detto, apre su queste anticipazioni, il regime semplificato più ampio, le semplificazioni in arrivo per edilizia e fisco, e anche ricerca e turismo, le direttrici che il governo seguirà per semplificare la vita alle imprese e rilanciare lo sviluppo, scrivono Eugenio Bruno e Marco Mobile a pagina 7 del Sole 24 Ore, che il ministro dell'economia Tremonti avrebbe fatto riferimento per rilanciare lo sviluppo a il rilancio anche del piano casa, con l'espressa volontà di consentire ampiamente gli immobili fino al 20%, ma non solo, secondo quanto apprende il Sole 24 Ore, tra le ipotesi allo studio anche l'introduzione del silenzio assenso per il permesso di costruzione sulle volumetrie minori, ad esempio l'aggiunta di una camera. Insomma, in arrivo il silenzio assenso per costruire contratti di programma sulla ricerca, novità prossime nell'edilizia, nel fisco, nella ricerca, questa è l'anticipazione del Sole 24 Ore che trovate a pagina 7. Mentre in primo piano sicuramente c'è tutta la vicenda Fiat Chrysler, a cui faccio solo un accenno perché poi Oscar Giannino se ne occuperà alle 9, la Fiat con, scrive Andrea Malana, pagina 3, ha fatto un passo importante verso il controllo della Chrysler con l'azienda che ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con altri soci in base al quale Fiat eserciterà entro giugno l'opzione per salire dall'attuale 30% al 46% del controllo di Chrysler. Che cosa vuol dire questo? Appunto, ne parlerà Giannino alle 9. Certo, per Susanna Camusso della CGIL è una conferma che si spostano sempre più negli Stati Uniti, così anche il capo della FIOM, Landini, intervistato dal Fatto a pagina 2, dice: ecco, avevamo ragione noi. Vorrei chiedere agli commentatori economici che ci criticavano se i lavoratori sono più o meno protetti quando il cervello dell'azienda finisce dall'altra parte dell'oceano, mentre il sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, dice: io invece penso sia una bella notizia. Sempre sul Fatto Quotidiano, certo è prudente Chiamparino, ma dice: credo che sia una buona notizia. Ripeto, alle 9 Oscar Giannino ne discuterà. Per quel che riguarda invece la cronaca, trova ancora ampio spazio la vicenda che abbiamo sentito nel giornale radio dell'arresto di Ciancimino, Massimo Ciancimino, il figlio del sindaco, dell'ex sindaco di Palermo, che per anni era stata anche una fonte di tante notizie per la procura di Palermo, è stato fermato dalla stessa procura di Palermo perché avrebbe prodotto, secondo l'accusa, un foglio visibilmente contraffatto nel quale si accusa l'ex capo della polizia, oggi capo dei servizi segreti, Gianni De Gennaro, di essere in qualche modo far parte della cosiddetta trattativa tra Stato e mafia, un'accusa dunque gravissima, un documento molto molto serio che aveva prodotto Ciancimino, ma la procura ha scoperto che quel nome di Gianni De Gennaro su quel foglio è stato aggiunto con una contraffazione probabilmente fatta a Photoshop, questo programma di grafico che si usa nel computer. E subito Dell'Utri viene intervistato sul Corriere della Sera, Dell'Utri che ricordiamo è stato condannato anche in appello e si attende la Cassazione, dice: ma che mi metto a parlare io di questo ragazzotto che scoprono adesso millantatore? Non c'è niente da scoprire, falsificatore di fatti, circostanze, nomi, vite, tutta Palermo sapi. Così risponde Dell'Utri, che poi conclude l'intervista dicendo: è una roba da neurodelirio, non ho mai conosciuto suo padre, anzi mi è sempre apparso come un cattivo sindaco che ha imbruttito la bella Palermo, un giudizio pessimo. E poi conclude l'intervista e dice: ma mi scusi, perché devo parlare di queste cose? Che c'entro io? Non male la chiusura dell'intervista di Dell'Utri. Anche Attilio Bolzoni fa un ritratto a pagina 9 di Repubblica: mezze verità, menzogne, fango, ascesa e caduta del figlio di Don Vito. Scrive Bolzoni: ormai è chiaro, dietro di lui c'è un puparo, per cui bisogna capire ora, in questi anni nei quali ha accusato tutti, da De Gennaro al generale Mario Mori dei Carabinieri, dalla magistratura con Pietro Grasso, il procuratore di Reggio Calabria Pignatone, il procuratore di Caltanissetta Sergio Lari, accusato a vario titolo un po' tutti. Allora Attilio Bolzoni a questo punto dice: bisogna chiedersi, la prossima indagine, chi ha manovrato Massimo Ciancimino in tutte queste dichiarazioni in tutti questi anni. C'è un'ampia pagina anche internazionale, perché sulla Libia: pagherete per l'invio di militari, questa è la minaccia di Gheddafi, che ha la notizia degli istruttori italiani che arriveranno a sostenere i ribelli. Voglio segnalare in questo l'apertura di prima pagina dell'Unità, che si concentra con il titolo Ostaggi di guerra e una foto in sottofondo della Asso 22, una nave sequestrata dai miliziani di Gheddafi dal 20 marzo. Effettivamente non si sa nulla di questa vicenda. Ci sono 8 italiani, racconta l'Unità, dal 20 marzo, prigionieri dei militari di Tripoli, cancellati, dimenticati, ora in serio pericolo, pare abbiano finito anche i viveri. E il governo che cosa fa? Si chiede l'Unità. Mentre trovate anche molto della vicenda dell'uccisione di 2 giornalisti. Io li voglio citare, sono Tim Etherington e Chris Ondros. Perché? Perché alle 8.20 avremo nell'intervista Franco Pagetti, che è un fotoreporter di guerra italiano, uno dei pochi che lavora in giro per il mondo, tanti anni embedded in Iraq. I nostri amici anche di Radio 24 forse se lo ricordano. Conosceva molto bene Tim Etherington, lo aveva sentito anche il giorno prima della sua uccisione in Libia. Oggi Franco Pagetti partirà proprio per andare in Libia. E ci sono tanti articoli, vi segnalo quello di forse uno dei più grandi inviati, Bernardo Valli di Repubblica, Morire per fotografare la storia. 3 pagine di racconto, pagine 35, 36, 37, della vita del fotoreporter, professione fotoreporter. Come diceva Robert Capa, se una foto è venuta male vuol dire che non sei stato abbastanza vicino alla scena per riprenderla. Vanno lì vicino, molto più vicino anche dei giornalisti, per raccontare, per cogliere un'immagine, e spesso purtroppo rimangono uccisi. Ne parleremo alle 8.20 con Franco Pagetti nell'intervista. E poi il sondaggio, vi ricordo, i reati d'opinione, il caso Lassini, questo alle 8.30. Intanto il giornale radio.